Continuiamo a parlare dei 15 anni di Psicoradio e lo facciamo con un redattore che è dentro insomma da molto tempo, è Lorenzo che è al telefono con noi, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Allora Lorenzo, per te che cos'è stata e cos'è Psicoradio? Ma Psicoradio, diciamo, è una radio che mi ha permesso di evolvere sia come persona, sia dal lato umano, sia dal lato di imparare nuove tecniche che non conoscevo. Ecco, fare radio erano cose che non conoscevo e ho imparato grazie a Psicoradio. Ecco. Certo, sono appunto tanti i temi affrontati in questi 15 anni, soprattutto sul tema della salute mentale, presa da diverse prospettive. Avete avuto la percezione che, come dire, anche chi ascolta ne abbia beneficiato? Ma sicuramente sì, perché secondo me sì, ecco, secondo me è utile non solo a chi la fa, ma anche a chi ascolta, ecco, anche perché io ho imparato, diciamo, mi sono avvicinato alla radio, a Psicoradio, proprio ascoltandola per caso, e quindi credo che faccia bene sia a chi la fa che sia a chi l'ascolta. E poi in redazione abbiamo anche molto spesso dei radioascoltatori che ci scrivono e ci danno consigli, ecco. Quindi penso che faccia bene anche a chi l'ascolta. Come funziona il lavoro di redazione? Ma il lavoro di redazione è composta in 3 giorni. Il primo giorno, il lunedì, adesso siamo in pandemia, quindi facciamo tutto da remoto, ecco. Comunque c'è la riunione di redazione dove praticamente svisceriamo tutti i temi possibili da trattare, poi negli altri giorni ci suddividiamo e ognuno porta avanti, seguito dai tutor, il proprio lavoro, ecco. Quindi voi proponete temi che poi vengono sviluppati? Proponiamo temi, vengono presi in considerazione dalla direttrice, li discutiamo e cerchiamo di portarli avanti. Il tema della salute mentale è un tema di cui si parla poco nei media italiani, eppure ce ne sarebbe un gran bisogno, no? Sì, ce n'è un gran bisogno. Facciamo il possibile per portarla avanti, ecco. È ovvio che c'è ancora un po' di stigma nei confronti delle persone con disturbo psichico, noi cerchiamo di combatterlo. Ecco. Quindi insomma se ne parla poco anche perché è un tema un po' tabù? È un tema un po' tabù, se ne parla poco, però facciamo il possibile, ecco. Voi nelle puntate avete affrontato anche temi abbastanza spinosi che anche recentemente sono tornati, come dire, di stringente attualità, come ad esempio anche il tema del TSO. Sì, tema del TSO, ma i temi sono temi del sentire le voci, tema della contenzione, tutti temi molto cari a Psicoradio e cerchiamo appunto di portare questi temi che magari sono sconosciuti e ho imparato a Psicoradio cosa sono, ecco. Ti ringrazio per questa tua testimonianza e insomma in bocca al lupo per il lavoro che state facendo. Ok, grazie.